Now I know how Joan of Arc felt. As the plane rolls to Rome and knows Yeah.

ambiente è una questione, l'ambiente che come ricordava prima Forestaccio è stata perfettamente trattata, affrontata, vissuta dagli anarchici di prima persona, quindi oggi per la persona ci sono numerose, numerose questioni ambientali, magari conterete magari fatto di questo spettro di rosso che si arrivò sulla Mantea e poi di altre navi che avevano scoperto su mare, by the rivers through the streets every corner. Sit down with you, don't walk away. Storie veramente fantastiche, come quella anche che parla di una valle, di un fiume, di un fiume che sarebbe naturalmente, diciamo così, portatrice di radioattività e al naso altri studiosi del cimitero, non ricordo bene, mi pare che ovviamente avrebbero dichiarato che si trattava di una radioattività naturale, o anche una radioattività della favola. Grazie. vendono per l'argento e la carriera. Quanti cuori che disertano allo sbando senza più bandiera. Santo cielo, piombre rosse della pioggia, contro il vento passeremo, questa guerra spazzeremo via in silenzio. Fuori col primo pogo partiranno anche i nostri cori. Un Yeah. tutti in mano. No, no, una piraccia, ho detto il birra giapponese, ormai dietro me. No, ma veramente ho comprato una birra giapponese, dunque non faccio nome, ma era proprio vicino. Sarà sicuramente la mia. Thank you. del movimento, tutti qua. No, e c'è qui, e c'è Reato, e c'è Radio di Roma, e c'è il centro di Luca, e c'è Giorno le aule di due, e c'è Frosso, e c'è tante, tante, tante spazi che è andato da me. Ecco questo momento del sesso. Ma se non picchio mia moglie, il cane non si gode lo flesso. Falla che il vizio. Sì, sì, no, ma infatti è quello che molte persone ci rimproverano, anche se sono comunque troppo che non possa essere difficile di vari colori, di vari colori. È un posto che speriamo non venga distrutto dalla furia distruttiva dei sindaci, perché io non so che cercano di distruggere, ma noi saremo anche pronti a fare le barricate. Sopravvogliamo, sopravvogliamo, sopravvogliamo, sopravvogliamo, sopravvogliamo, sopravvogliamo, sopravvogliamo, turma nemica di una galera infame su cui ratta la morte miete per lenta fame, ma gli orizzonti limpidi si chiude la nostra aurora e sulla tolda squallida urla l'ascolta ogni ora. I nostri disimbolano tra fetide e carene, siamo magri smunti schiavi stretti in ferro catene. Sorge sul mar la luna, ruota le stelle in cielo, ma sulle nostre luci stese un funereo velo. Torme di schiavi adusti, chi ne ha gemer sul remo. Del mare remiam finché la nave si schianti sui frangenti, altele rosso nere tra il sibilar dei venti, che sia pietosa coltrice l'onda spumosa e ria, ma sorgandi sui martiri il sol dell'anarchia. Su schiavi Europa, work it out. I Bucati, work it out. E Q Sense, work it out. Questa Vera, work it out. Via Popilia, work it out. Work it out. Massa, work it out. Via Roma, work it out. Villa Vecchia, work it out. Torre Alta, work it out. E Q Sense, work it out. Spirito Santo, work it out. Trans Costa, work it out.